Cosa sono queste immagini, questi volti muti e sordi? Ho da fare, non ho tempo per frugare fra i ricordi. Cosa sono queste luci che mi accecano la mente? Ho altre cose per la testa, io non posso farci niente. Sono foglie tormentate dal soffiare della sera, facce scure ad aspettare una bottiglia, una corriera. Sono occhi stralunati, sono stracci e scarpe rotte, sono i raggi dei lampioni che ritagliano la notte. Sono i versi di un poeta soffocato dal potere. Sono mani troppo piccole per raccogliere l'amore. Sono tetti diroccati attraversati dalle stelle. Sono voci di bambini che non stanno nella pelle. Alberi stanchi consumati dal vento. Suoni lontani che somigliano a un pianto. Nodi alla gola che non hanno parole, lacrime che svaniscono al sole. Sono muri senza fine, controllati dai soldati. Sono strade silenziose con i chioschi colorati, mense piene di rumore e di bocche da sfamare. Sono corse poi risate quando è ora di giocare. Ora qui tra queste facce, queste maschere di carta, mi domando chi c'è sotto, io mi domando chi le porta. Guardo gli occhi dei passanti sconosciuti, inespressivi, con il dubbio di essere morto, mentre loro sono i vivi. Alberi stanchi consumati dal vento, suoni lontani che somigliano a un pianto, nodi alla gola che non hanno parole, lacrime che svaniscono al sole.